Abbiamo invitato a Bologna Majed Abusalama, che è un attivista politico e ricercatore originario del campo profughi di Jabalia a Gaza, che adesso vive e lavora in Europa, è impegnato nel movimento BDS in Europa, è presidente della Sumud Finland in Finlandia e di Coalition of Lawyers for Palestine in Svizzera ed è cofondatore di Palestine Speaks in Germania. Quindi un attivista che ha una grandissima esperienza, 20 anni di attivismo nei movimenti appunto antirazzisti, antifascisti e soprattutto il suo impegno nel movimento BDS, prima a Gaza e poi anche adesso che vive in Europa. Insieme a lui avremo Monica Dall'Asta, che è docente dell'Università di Bologna, del Dipartimento delle Arti, ed è un attivista del coordinamento docenti Unibo per la Palestina, che è impegnato con studenti e studentesse, personale amministrativo, nella campagna per interrompere collaborazioni con le istituzioni accademiche di ricerca israeliane e le collaborazioni anche con le fabbriche, con le aziende implicate nel settore delle armi. Majed Abusalama parteciperà anche a un evento organizzato all'interno di Metropolis, che è appunto questa iniziativa di coalizione civica, il 27 alle 18:30 al Baraccano in via Santo Stefano 119/2. Perfetto. E, appunto, abbiamo visto questa notte di nuovo gli attacchi alla Global Sumud Flotilla. Insomma, Israele si sente in potere di fare qualunque cosa. Sì, appunto, ci sono stati questi attacchi nella notte, c'è stato un sorvolo di droni non identificati, sono state lanciate delle bombe assordanti, sono state disturbate le comunicazioni delle banche della flottiglia. È chiaro che appunto Israele sta cercando di fermare questa flotta che sta cercando di raggiungere le coste di Gaza con aiuti umanitari. C'è stata già una risposta, è stato convocato un presidio per questa sera alle 19:30 in Piazza Nettuno, appunto con lo scopo appunto di difendere la flottiglia. Abbiamo detto in più e più occasioni che se fermano la flottiglia blocchiamo tutto nuovamente, blocchiamo tutto non solo per la flottiglia ovviamente, ma soprattutto per la Palestina, come è stato fatto in questi giorni con gli scioperi generali e con le grandi mobilitazioni che ci sono state nell'ambito di questi scioperi. Certo, grazie mille.